Massimo Zaccaria. Ieri 25 maggio a Bari, con la collaborazione degli occupanti di Villa Rotta occupata di Bari, abbiamo deciso di manifestare contro gli assassini dello Stato, contro i killer mascherati che si presentano con un'etichetta, collocati in qualsiasi città, scritto, come tutti conosciamo, Equitalia. A che? Esatto, sono assassini dello Stato. Passa, perché siamo per strada, una macchina e ci grida: mettiteci la bomba! Mettiteci la bomba! A chi ne quattro, chi ne la merda! Questo è il dialetto barese, però noi non abbiamo posto le bombe, abbiamo posto le lapidi con scritto i nomi, suicidi di Stato, nomi di persone che si sono suicidate per un motivo che tutti quanti conosciamo: chi perché ha una crisi economica, chi perché ha avuto una disoccupazione, eccetera eccetera eccetera. Nomi non soltanto pugliesi, ma nomi di tutta Italia. Ed erano più di 50 lapidi che abbiamo deposto per terra davanti all'ingresso di Equitalia. E man mano che deponevamo le lapidi davanti all'ingresso di Equitalia, la polizia o i poliziotti si facevano ancora più indietro. Più aumentavano le lapidi e più i poliziotti si facevano più indietro. Cioè i poliziotti entravano dentro all'agenzia di Equitalia. E per ogni lapida mettevamo sopra un fiore. Capivano il perché questi poliziotti dovevano indietreggiare, perché se calpestavano quelle lapidi, calpestavano i morti. Ci siamo fermati lì, io e i miei compagni del Villarot di Bari occupata? No! Abbiamo deciso di entrare dentro all'agenzia di Equitalia. Ma ci siamo trovati di fronte una schiera di poliziotti e una schiera di ispettori della Digos, che in questo momento non vedo qui presente. Perché un compagno comincia a dire: voglio entrare perché io sono un cittadino. L'ispettore gli risponde: no, tu oggi sei un manifestante. Perché io aggiungo: scusi, ispettore, posso recitare una poesia, questa poesia che tra un po' ora condividerò con voi? L'autore lo nominerò alla fine. Mi dice l'ispettore: vuoi recitare una poesia? Allora dammi un documento. Io ho dato un mio documento, perché io di fronte allo Stato italiano non ho nulla da nascondere. Ho dato il documento. Però in quel momento mi sono domandato: ma se io dovessi recitare una poesia, dovrei mostrare un documento? Allora entro, sorvegliato. Prima di recitare questa poesia, a destra dall'ispettore della Digos, a sinistra da una schiera di poliziotti, a di fronte dal direttore di Equitalia con tutti i suoi collaboratori e in più gli altri suoi addetti o più la gente che pagava le tasse. E devo dire che ieri hanno ad un tratto bloccato il sistema di pagamento e hanno mostrato: attenzione, quando a fianco dell'ispettore della Digos di Bari e a fianco degli poliziotti schierati, hanno ascoltato queste parole: quando chi sta in alto parla di pace, la gente comune sa che ci sarà la guerra. Quando chi sta in alto maledice la guerra, le cartoline precetto sono già compilate. Quelli che stanno in alto si sono riuniti in una stanza. Uomo, che sei per la via, lascia ogni speranza. I governi firmano patti di non aggressione. Piccolo uomo, firma il tuo testamento. Sul muro c'era scritto col gesso: vogliamo la guerra. Chi l'ha scritto? chi l'ha scritto? È già caduto, Bertolt Brecht. Cioè, per fortuna, una persona molto, come dire, molto, ha una certa conoscenza nel teatro sociale, nel teatro epico, nel teatro politico. Questo si chiamava Breviario tedesco di Bertolt Brecht, sono le sue poesie. E io oggi sono qui a Reggio Calabria, il 1° maggio sono venuto qui a fare uno spettacolo sulle morti sul lavoro, La Cisterna, prodotto dal Manacuma Teatro di Reggio Calabria, scritto e diretto da Salvatore Arena. Sono venuto il 1° maggio qui, dove il giorno prima io col compagno Peppe Marra siamo andati a fare la spesa comprando la salsiccia e il vino. Il giorno dopo mi sveglio e sento tramite Ciccio, l'altro compagno della cartella, che hanno fatto un furto, hanno sfondato alla porta del centro sociale la cartella, e mi sento comunque dire dalla Puglia offeso sentire una notizia veramente molto grave. Hanno sfondato questa porta e hanno fatto un furto. Questa è un'intimidazione. Dopo 15 giorni, cioè il 15 di maggio, sento che la cartella viene infiammata, prende un incendio, prende, come dire, assume una intimidazione. Dopo 21 giorni mi ritrovo qui e trovo questo gesto. È chiaro che la mia reazione è molto incazzata, è molto offesa dalla Puglia, e ho pensato con voi di condividere un grande pensiero, delle grandi riflessioni che appartengono a un grande uomo, non della politica partitica, ma della politica popolare, di un uomo che ha fatto parte di una certa resistenza, che ha fatto parte sia della prima guerra mondiale soprattutto, che vi nominerò dopo. Questa riflessione si chiamano, oppure si intitola, Gli indifferenti. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani, che vivere veramente non può non essere cittadino o partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità, è ciò su cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti, è la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani non sorvegliate da alcun controllo tessono la tela della vita collettiva, e la massa le ignora perché non se ne importa, non se ne preoccupa, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non la sapeva, chi ha reagito e chi è rimasto indifferente. Alcuni piannucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Odio gli indifferenti anche perché perché mi dà fastidio il loro pianisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto, e sento di essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono un partigiano, vivo. Sento nella coscienza della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa che nessuno che sia alla finestra a guardare mentre in pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 11 febbraio 1917, Antonio Gramsci. Grazie a tutti e buon proseguimento. Adesso aggiungo la mia. E noi la cartella la ricostruiamo, va bene? Noi la cartella la ricostruiamo e non ci fermiamo nessuna davanti a qualsiasi intimidazione, va bene? La mafia c'è la suca!